magnifici, ha dei cicli di affreschi. Uno l'abbiamo utilizzato tantissimo nell'anno appena concluso, l'anno della fede, perché è il simbolo degli apostoli. Poi c'è la storia di San Sebastiano, ci sono altre pitture anche più antiche, e tutto questo concorre a fare della Pieve di San Pietro di Feleto un punto, ecco, di riferimento artistico, culturale, ma anche di vita spirituale. Sì, perché vedo che fate tante cose, ecco, nella vostra oratorio, nella vostra chiesa, no? Ci piace valorizzare, ecco, il tesoro che abbiamo, che è soprattutto un tesoro di storia dell'arte, di pittori indubbiamente minori, perché siamo all'interno del territorio veneto, così tra le colline del Prosecco sopra Conogliano, ma di per sé, anche siccome risale al 1200, al 1400, così è anche da valorizzare, da far conoscere, ecco, da far contemplare a più gente possibile. Ma è stata restaurata in questi anni o sempre non hanno mai fatto? Cioè, sì, intorno all'anno 2000 c'è stato un restauro proprio da cima a fondo, potremmo dire, degli affreschi. Addirittura da cima a fondo? Sì, ha interessato sia la cappella con le storie di San Sebastiano, che è della fine del 1400, sia anche gli altri affreschi, come citavo prima, il ciclo del Credo e tutti gli altri. Ma la storia di San Sebastiano lei mi ha incuriosito, perché non me la ricordo, l'ho anche sentita. San Sebastiano è un funzionario imperiale romano, e questo si dà da fare quando è funzionario per varie cose, soprattutto a livello così di vita ecclesiale, per la catechesi, per portare i pagani alla fede cristiana. Naturalmente deve invitarli a lasciare gli idoli del passato e allora aderire davvero a Cristo, abbandonando queste forme idolatriche. Poi la sua nomea, potremmo dire così, la sua fama viene quando diventa patrono contro la peste. Ma quindi è già morto, no. È già passato. Ma come mai l'hanno fatto perché, patrono? Perché nella persecuzione, lui subisce una persecuzione attraverso, vengono iniettate delle saette, insomma vengono tirate con l'arco delle frecce, e lui riceve queste frecce. Però non muore in seguito. La freccia provoca sulla pelle, sulla carne di Sebastiano, delle pustole. E queste pustole sono messe in riferimento alle pustole invece provocate dal morbo della peste. Ho capito. Quindi... Siccome è riuscito vincitore, diciamo così, sulle pustole, ecco che diventa. Altri invece fanno risalire la devozione proprio come protettore contro la peste, perché in una pestilenza accaduta a Roma le sue spoglie, le sue reliquie furono portate in pellegrinaggio per il centro della città, e dopo di questo, ecco, ci fu il miracolo della liberazione, della purificazione dalla peste. Comunque lui è morto martire, e difatti il San Sebastiano è un giorno prima di Sant'Agnese, che anche lei era. Sì, è il 20 di gennaio. Il 20 di gennaio, sì. E altri tesori nella vostra basilica, oltre San Sebastiano, di importante cosa avete? Abbiamo, come ripeto, questo ciclo del credo, del simbolo apostolico, sono 12 scene illustrate, e poi sarebbero, adesso la parte sotto didascalica è un po' scomparsa, però sarebbe il cosiddetto credo misto, cioè alla forma visiva dell'illustrazione combina quella della dicitura, della frasetta, ecco, del credo, dell'articolo, la didascalia del credo. E poi abbiamo l'abside, che è affrescata anche questa con 3 strati di pitture, perché la Pieve ospitava, essendo l'unica costruzione in muratura della zona, ospitava proprio nei periodi delle pestilenze, diventava un ospedale. E poi per purificare si buttava sopra una mano di calce, e quindi scomparivano le pitture, ma successivamente rimaneva un pochettino, ecco, il ricordo delle immagini che c'erano, e quindi ecco che un nuovo pittore veniva chiamato a riprodurre quanto era andato perduto. La chiesa millenaria è quasi, quasi anche San Nicolò qui a Treviso è millenaria, quindi... Sì, la nostra è di più modeste dimensioni. Beh, chiaro, ma sì, no, però perché... noto la potenza da un disegno così, che su una pubblicazione noto questo senso di, come dire, di dominazione, se vogliamo, questo senso di concretezza, se vogliamo. Di certo. Tanto sorge sopra un colle, si chiama millenaria, è fatta risalire insomma a tempi così antichi, per il fatto che sono state trovate dei resti di tegole con il bollo romano e quindi si pensa che lì ci fosse, può darsi, se non proprio la chiesa cristiana, almeno un tempio pagano, ecco, che fosse precedente, che fosse su un'altura così. E questa è una pieve, se non ricordo male, giusto? Pieve. Si nota anche dal fatto che il campanile è adiacente e anziché staccato, se non ricordo male, che nel caso delle cappelle. Che differenza c'è tra pieve? Pieve e cappella, perché la pieve era la matrice, La pieve ricorda il nome di plebs, cioè di popolo, il popolo di Dio. Ho capito, quindi era il luogo dove il popolo di Dio nasceva, aveva il fonte battesimale. Esattamente, ecco. A differenza delle altre chiese, delle cappelle cui mancavano. Comunque è abbastanza contenitiva anche la vostra chiesa, si contiene parecchie persone, insomma. Sì, un 300 persone ci stanno comode. E durante l'anno così vengono a visitarla, ci sono dei turisti che vengono a visitare la vostra quest'anno, chiesa? Quest'anno, appunto per l'anno della fede, c'è stato un raddoppio delle presenze. Di solito eravamo sui 5.000 visitatori, addirittura turisti. Addirittura raddoppio. Addirittura. Sì. Quest'anno ci sono stati i pellegrinaggi, ci sono state... congregazioni religiose che hanno organizzato magari per piccole comunità dei momenti di ritiro, così anche perché lo scenario naturalmente è straordinario, insomma. Sì, c'è anche il paesaggio che aiuta giustamente. Poi ci sono anche dei matrimoni, ecco, chi volesse fare un matrimonio un po', ecco, diverso dal solito, un po' certamente, ecco. Lo fa San Pietro di Feletto, in collina. O anche il battesimo, proprio perché si richiama alla pieve, che ha poi questo fonte battesimale dentro questa cappella della fine del 1400, per cui è uno scenario spettacolare da tutti i punti di vista. Certo. Ah, è bello. Lei da quanti anni è parroco qui? 8 anni. Però, è abbastanza? Mi avvio verso la fine perché me ne hanno dati 9, per cui questo è l'ultimo. Ah, non è che possiate... Canonicamente parlando, poi canonicamente magari la provvidenza del Signore. è peccato. Quindi c'è, come dire, l'avvicendamento potenziale, diciamo, prima del decimo anno, insomma. Sì, io ho la nomina per 9 anni, come ripeto, e quindi... Ah, io pensavo che avesse... Quindi è una nomina, diciamo, determinata proprio nel tempo. A tempo, sì. Poi non si sa dove... E poi è sempre la questione della partenza. Sì, io mi sono sempre chiesto perché giustamente occorre sempre essere estote parati, come dicono gli scout, ma il patrimonio, come posso dire, forse è sicuramente un arricchimento, ma è anche la difficoltà del distacco. Anch'io penso. Indubbiamente, anche perché vedete oggi con la mobilità che c'è, le persone si conoscono non nei primi anni, ma successivamente, avanti nel tempo, no? Giustamente, sì. Quando si stabilizzano anche loro, quando cominciano, nascono i figli, vengono al catechismo, così, per cui... Dall'altra parte c'è, penso, anche una visione positiva della cosa, cioè la pastorale si rinnova. Sì. Volentieri, giustamente. E poi è sempre arricchente, perché uno... porta avanti le cose in un modo e un altro. Sono le sfaccettature del prisma, giustamente, che vengono. Questo è vero, però penso che sia i cambiamenti sono sempre, sempre sono. Però è anche vero che è come ci si pone, chiaramente qui ci si pone dal punto di vista del servizio, dal punto di vista del cristiano, il quale deve evidentemente... Pensate anche all'impegno missionario, no? Sì. Uno va, resta, porta del suo, trova anche tanto... E poi nello stesso tempo però va da un'altra parte, lì ne arriva un altro. Questo ricambio, diciamo. Poi si capisce meglio ancora che il Signore è l'unico e noi siamo esattamente il passaggio. I missionari veramente fanno una cosa stupenda, perché andare in Africa, in India... Tenendo presente che come dicevo, qualcuno di molto più importante di me, credo che abbiamo bisogno di una nuova evangelizzazione anche qui dalle nostre parti. Probabilmente. No, sì, sì, la Pieve potrebbe servire a questo. Sì. Perché la presenza di queste opere d'arte, in fin dei conti, quando sono state realizzate, non sono state realizzate semplicemente per abbellire la Chiesa, ecco, per ma perché potessero diventare catechesi, potessero diventare spiegazione. Una rappresentazione catechistica, diciamo. Certo. Ecco. E prima di venire a San Pietro, era stata in un'altra parrocchia? Sì, avevo fatto 4 anni da parroco a Montaner. Montaner. Dov'è Montaner? Un piccolo paese, un comune di Sarmede. Sempre bello sulla zona. Sì. Allora, Don Giuseppe, ci fermiamo un momentino per ascoltarci la seconda canzone in programma. D'accordo. Che è intitolata Ave Maria dell'Emigrante, è cantata da Luciano Taioli. La strada dietro me ho lasciato ormai, un campo, una casa ed il mio paese. Tanta gente passa e mi saluta mentre mi allontano e mi prende ancor per mano la marina. Dalla piazza sento un'Ave Maria e i bambini che giocano insieme. Ave Maria, Ave Maria. Le strade e di alberi in fiore, non so proprio come mai è finita così, e pensando al mio paese sentirò tanta nostalgia. Dalla piazza sento un'Ave Maria di nuovo in studio con il nostro ospite che è pievano, di San Pietro di Feletto. Che in dialetto si dice Piovan. È il Piovan. È il Piovan. Il nostro ospite ha scritto anche, diciamo, una prefazione per il libro di Oliviero Pillon riguardante il clan Verdurin, che è una realtà naturalmente universalmente nota. Chez de Martin a San Pietro di Feletto. Quindi pieve giubilare di San Pietro di Feletto. Conosco il clan Verdurin di Santa Maria di Feletto dalla sera del 25 settembre 2005, quando, dopo la santa messa della mia immissione in possesso della millenaria pieve di San Pietro di Feletto, in sacrestia venne a presentarmi nella storia, le finalità e le iniziative la signora Lia De Martin. Prima ne avevo solo sentito parlare e sempre in bene. Da quel fatidico giorno è nata una collaborazione reciproca che è andata sempre più consolidandosi e che è davvero un grande dono della provvidenza divina. La pieve di San Pietro Apostolo ha infatti, in questi ultimi 8 anni, sempre potuto contare sulla competenza, sulla disponibilità e sull'inventiva di questo cenacolo di ispirazione cristiana che è il clan Verdurin. Potremmo dire che non c'è stata e non c'è attività religioso-culturale della parrocchia che non la veda coprotagonista ed insieme organizzatore di importanti e prestigiosi eventi, quali le mostre in oratorio, il Premio Nazionale di Poesia Religiosa, le conferenze e gli incontri con figure eminenti del mondo sia cristiano che laico. Infatti, il clan è un dialogo tra la Chiesa e il mondo, tra credenti e non, tra persone rispettose le une delle altre. In questo importante anniversario manifesto il mio più vivo compiacimento ed il mio più sincero ringraziamento per i passi compiuti, nonché il mio augurio a continuare sulla strada intrapresa, restando comunque e sempre aperti al soffio dello spirito. Con i sensi della più profonda riconoscenza, il pievano Don Giuseppe Gerlini. Oh, ecco. Bello, bello. Naturalmente meritava di essere citata la cosa. Veramente... Allora, con questo nostro clan Verdurin, con la nostra Lia, con il nostro Flaminio, avete un buonissimo rapporto, vero? Un ottimo rapporto. Ecco, direi. Anche proprio collaborativo. Grandissimo, proprio perché non c'è iniziativa culturale, mostra o rassegna di poesie o incontro di artisti che non ci veda compartecipi. Sì, difatti... Quando hanno fatto anche la mostra dei fiori in giugno. Sì, certo. Che è stato bellissimo proprio. E così, cos'è qual è la cosa, qual è quello che le piace di più, oltre che sì, queste manifestazioni, ma cos'è che apprezza in queste due persone che hanno dedicato una vita veramente a questo clan che loro hanno fondato? L'entusiasmo intanto, perché non è ecco. L'entusiasmo, ecco. La verve anche con l'entusiasmo, ecco, la passione stessa. E poi anche tenacia. Certo, certo. Perché hanno una tenacia che effettivamente, insomma, tante volte veramente mi domando. È invidiabile. Sì, perché una ne pensano, una ne fanno e 100 ne pensano, certo, perché... Certo. Tanto che Lia propone qualcosa e Flaminio ne pensa altrettante o viceversa, insomma, così. Vabbè. È proprio così. Comunque io mi auguro che la vostra collaborazione duri sempre e ancora per tanti anni, dai, io ve lo auguro. Ma sono contento proprio che sia così, perché danno, vedete, una parrocchia, la mia è una parrocchia piccolissima, con pochissime anime, avrà 500, forse 600 anime, e quindi poi è dispersa sui colli, se non facciamo qualche cosa per animarla, siamo tagliati fuori dal mondo. Esatto. Beh, quella sera che avete fatto l'ultima c'era parecchia gente. Ho fatto quella tavola rotonda, sì. Lì, abita la terra e vivi, sì, con fede. Sì, sì. Ecco, c'era parecchia gente. Per aiutare le persone soprattutto a leggere il tempo presente con una visione anche di speranza, ecco, non soltanto in modo negativo, come crisi, come perdita di valori, ma vedere anche che ci sono delle cose buone e delle prospettive altrettanto valide, insomma. Eh sì, perché la gente è un po' scoraggiata oggi. Sì, sì. Forse è venuta a mancare un po' quella identificazione dell'uomo con il lavoro. Ritengo, per certi versi, con il lavoro, con lo spirito di sacrificio che era proprio il retaggio della civiltà contadina. E a tale proposito mi pare di ricordare che c'è un ciclo di non so se sia un ciclo o qualcosa, che ha riferimento al Cristo della Domenica. Sì, è vero, abbiamo anche qui 1300 un dipinto sotto il portico, quindi all'esterno della pieve, che ricorda proprio i lavori del tempo andato ormai, ecco, della campagna del Veneto rurale, contadino. E sono riprodotti questi arnesi dei vari mestieri di una volta su questa facciata della chiesa, e sono legati a una figura che indubbiamente dovrebbe essere il Cristo festivo, il Cristo risorto, il Cristo pasquale, attraverso delle lingue, ecco, delle lingue di sangue. Questo perché il lavoro festivo fa ancora soffrire, ecco, il Signore, fa ancora provare la passione, ecco, gli infligge sofferenza, e quindi chi guarda questo affresco è portato a dire, ecco, la domenica è un giorno di festa, non un giorno per... E quindi qui vorrei interloquire di sorprendente attualità, se vogliamo. Di sorprendente attualità. Io adesso che nominiamo il Cristo della Domenica faccio un passo indietro e ricordo che il professor De Mattè, una persona ingambissima, intelligentissima, aveva composto una canzone proprio su il Signore della Domenica, sì, bon salveme l'anima, che non avemo testa a far peccai di de festa, ma l'aveva composta così graziosa, così simpatica, e così, parlando del Cristo della Domenica, mi è venuta in mente questa canzone che aveva scritto. Certo, ecco. Ne conosco il testo, non l'ho con me però. Ah, lo conosci il testo? Sì, sì, ne ha fatto dono anche a me, il professore. Lei allora... l'ha conosciuto? Il professor De Mattè? Sì, è venuto un giorno. Sì. Oh. Bene, allora Don Giuseppe, lei prosegua pure con... Niente, posso parlarvi un pochettino della vita parrocchiale, sì, ecco, sì, oltre le memorie che sono scritte negli affreschi della Pieve, la storia, potremmo dire, giorno per giorno, ecco, si realizza anche per la collaborazione di tantissime persone. Ecco, io posso proprio dire che ho trovato una parrocchia che dal punto di vista della... adesso si usa questo termine, ministerialità laicale. Oh. Beh, dà proprio un significato, vuol dire, magniloquente. Il servizio, insomma, il servizio di collaborazione, certo. Ecco, fatto dai battezzati. Che diventa, ecco, sempre più importante. Diventa sempre più importante, e anche ci fa capire meglio, ecco, l'appartenenza di tutti al popolo di Dio. Esatto. Ecco, un popolo che deve essere attivo, deve essere collaborativo, deve essere missionario, deve essere portatore di speranza. E non al traino del sacerdote, ecco, diciamo. Certo. Ecco. Ma in questi paesi è più facile che la gente sia più legata alla parrocchia, che qui in città sono più dispersivi. Penso. Può essere, io ho un buon zoccolo duro, potremmo dire così, ecco, perché è la gente radicata nel paese, sì, da generazioni. Esatto. Sì. Poi c'è invece una fetta, diremmo così, che è più difficile raggiungere, che sono gli importati, io dico quelli che hanno la sindrome del mulino bianco. Cioè, questa è bella. Vengono in campagna, ecco, un ambiente rurale come San Pietro di Feletto, per gustare la vita di campagna. Sì. Però poi, per lavorare, tornano in città, tornano a Conegliano o nelle periferie di Conegliano, per fare la spesa, sono lì. I figli vanno a studiare, dopo le medie vanno a studiare, se non anche prima, fuori del comune. E insomma, a San Pietro di Feletto vengono e si trovano bene, perché la notte si riposa bene, insomma. Diciamo che è un po' riduttivo come punto di vista, giustamente. Sì, d'altra parte oggi la vita moderna è così, e pensare che si sta così bene in campagna, in collina, diciamo che... Però uno che abita a San Pietro di Feletto, che deve andare a Conegliano a lavorare tutte le mattine o a studiare o a... Sì, è fuori del paese, insomma, naturalmente si può anche ben capire, oggi con le cose noi siamo in una periferia, in fin dei conti, bella finché volete, ma periferia di una grande città, per cui sì, abbiamo limitate possibilità, ecco, di sviluppo, di crescita. Che forse possono essere magari anche non un handicap, ma al contrario una tu, diciamo, nel senso di... sì, che ci si può, come dire, distinguere proprio per queste qualità di separatezza, magari fisica, ma di identità e di unione, certo, spirituale, diciamo. Sì, sì. Come dico, quelle che sono lì da tempo sono perché sono radicati molto sul territorio. Esatto. Sì, perché c'è gente che è lì da generazioni. Eh beh, certo. E con questi naturalmente si va anche sul sicuro, diciamo, sì, sono gli altri che è decisamente molto, sì, più difficile da agganciare, diciamo. No, ma senti subito proprio l'aria di solidarietà, di amicizia, di dopo, il buono e il cattivo c'è dappertutto, però si respira un clima diverso, un clima più... C'è aria buona, diciamo, esatto, così. Sì, sì, no, ma anche proprio fra la iniziative gente. Iniziative per i giovani e giovanissimi, nel senso ci sono scout, ci sono gruppi. Abbiamo realizzato negli anni scorsi, ecco, queste iniziative, e dopo i gruppi da soli lì non si reggono, non si reggono perché sono pochi, non fanno, certo, massa critica, certo, diciamo. Ecco. Ma la domenica avrete qualche così all'oratorio per i, sì, giovani? Sì, c'è, abbiamo l'oratorio. E quindi c'è la possibilità che vengano a giocare, così dopo la messa facciamo ogni tanto, facciamo degli intrattenimenti anche per le famiglie. Avete già fatto la castagnata? Sì, abbiamo una bellissima altra realtà, l'Associazione Amici dell'Antica Pieve, che organizza tutta questa parte, potremmo dire così, ricreativa, ma anche più ampia, di sagre paesane, così, quindi... Abbiamo fatto per San Martino i morti la castagnata, la faremo adesso per San Nicolò. Ah, cosa fate per San Nicolò? Sera, il solito ritrovo con i bambini e San Nicolò che arriva a dorso dell'asinello. Ah. E così. Che bello quando si è bambini che si credono a queste cose. Sì. E che dopo così finisce l'incanto. Bene, ci fermiamo un momento per ascoltarci, certo, una canzone. E la canzone che ci ascolteremo è cantata da Enrico Musiani ed è intitolata Campanile. Addio piccole case inamidate, cotte dal sole dell'estate, io vado via. Bicchier di vino e partirò. Campanile, suona ancora una volta, nel mio cuore la tua voce sento, saluta tu la gente che rimane qui, di che vorrei parlare ma poi piangerei. Campanile, porta un bacio alla mamma, che stasera troppo sola sarà. So che ti ho perduto per sempre ormai. Domani, quando sarò troppo lontano, vorrò le ali di un gabbiano per ritornare. Campanile, che vorrei parlare ma poi piangere. dille che non pianga per me. Campanile, forse un dì tornerò. Eccoci di nuovo in studio col nostro Don Giuseppe. Oh, adesso si parla un pochino di così San Pietro di Feletto, un po' di storia succinta. San Pietro di Feletto non c'è soltanto la chiesa di San Pietro Apostolo, cioè la mia chiesa, la mia parrocchia, c'è anche altre frazioni, per esempio c'è Rua di Feletto. Rua di Feletto è famosa perché c'era anticamente dal 1600 un eremo calmaldolese. Ecco, difatti, ecco, se vi recate a Rua, cioè restano ancora quattro celle dei monaci, oltre al palazzo dell'abate che è all'attuale municipio. Anche la chiesa è quella dei frati, ampliata perché potesse dar spazio alla popolazione che poi alla caduta, alla fine del convento, così ha trovato. Io sono andato a visitare il Camaldo lì, che bello, abbiamo fatto un'impressione così bella, così l'eremo dei Camaldoli. Sì, sì. Questi erano legati a Venezia, erano legati al Monte Rua di Padova e così amministravano un pochettino anche, diciamo, i campi, il territorio. Sì, sì, come si usava, sì, esatto. Sì. Camaldolese. Poi c'è un'altra frazioncina, la frazioncina di Santa Maria, forse la più corposa dal punto di vista numerico. Santa Maria di San Pietro di Feletto. Santa Maria di Feletto. Santa Maria di Feletto. E poi San Michele, che anche lì c'è la chiesa, e, però attualmente non è parrocchia, è legata con Santa Maria. Quindi non con voi di San Pietro di Feletto. È sotto il comune di San Pietro di Feletto, però non fa parte della parrocchia. Ho capito. No, della mia parrocchia. Non c'è collaborazione pastorale ancora, sì, in essere? Abbiamo, sì, l'unità pastorale. Avete con l'unità questo. Pastorale. E poi c'è un'altra frazione, Bagnolo, che invece però fa unità pastorale perché è più comoda con una parrocchia di Conegliano, l'Immacolata di Lourdes. Ecco. Sì, perché adesso queste parrocchie si uniscono anche un pochino, perché vedo che magari un parroco è parroco di due parrocchie, mi ho sentito dire. Sì, sarebbe bello che si unisse anche la gente. Esattamente, sì, stavo per dire che è sempre questo, giustamente, lo spirito della collaborazione, dell'unità pastorale, quello che bisogna, dopo essersi un po', come dire, frammentati un pochino nel tempo, bisogna ritornare a compattarsi, se vogliamo. Ricomporsi. Ricomporsi, giustamente. Ma penso che sia un paese abbastanza antico anche San Pietro di Feletto. San Pietro di Feletto, come le dico, 1600 l'eremo, prima c'era soltanto una villa, poi è decaduto con Napoleone l'eremo, ha preso piede il paese. Ecco. San Pietro è più che millenario, ecco, attorno alla Pieve. E poi, siccome il paese lì è, siamo in zona longobarda, per cui ci sono i borghi. Ah sì, infatti Iliade parlava dei borghi, ecco, sì. Sì. In un borgo più dell'altro si sviluppa maggiormente, e allora ecco che richiama la necessità di avere alcuni servizi, tra cui il servizio ecclesiale della parrocchia, e così hanno costruito la chiesa. E ne avete tanti borghi? Sarà più di una decina. Però cos'è, un agglomerato di case? Sì, si trovano, penso che siano famiglie che magari hanno da coltivare, o nell'antichità avevano da coltivare il terreno lì per attorno, e allora si consociavano per i vari lavori, ecco, e quindi costruivano questo borgo di case, e da questi, ecco, restano questi nuclei. Un'unità primigenia proprio per... Sì. Mettere assieme le forze, compagnie, sì, energie, sì. Sì. Beh, in sostanza un borgo è come una famiglia, perché si conoscono tutti nel borgo, si frequentano. Un po' come da noi si chiamano colmelli, colmelli. Se abbia probabilmente un'attinenza, una rilevanza. Ma forse analoga. È più grande il borgo? Presumibilmente, sì. Forse, perché io dei borghi proprio, è vero che anche da noi c'è Borgo Santa Maria, sì, anche qui a Treviso mi pare che ci sia qualche borgo. Certo. Sì. Sono reminiscenze, diciamo. Ecco. Sì, ma nei paesi penso che sia ancora più facile, anche perché sì, vivendo da generazioni la gente si... Io volevo chiederle questo, adesso siamo in prossimità delle feste natalizie, quindi voi come parrocchia che cosa, che progetti avete, cosa fate in queste feste? Beh, penso che facciamo quello che fanno tutte le parrocchie, cioè si attivano moltissimo, ecco, in questo, tra le sante messe, ecco, di orario e quelle fuori orario del Natale, poi novene, poi le preparazioni come l'adorazione, celebrazioni particolari, così. Per di più è in corso a San Piero di Feletto, nell'unità pastorale, la visita pastorale del Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, per cui siamo indaffaratissimi anche da questo punto di vista, ecco, per far trovare non soltanto tutto bello e tutto pronto, ma per far vedere, così mostrare quella che è la nostra realtà, così senza apparati stupefacenti, sì, ma senza nella orpelli, senza niente, ma nella semplicità e nella verità anche. Esatto, dire, cose, durante le feste. Nella sobrietà. È cominciata oggi, ecco, oggi già ho incontrato i bambini della scuola materna di Santa Maria, poi si è intrattenuto con gli ospiti a Santa Maria, sempre della casa di riposo. Questa sera avrà la messa presso la casa religiosa di San Pietro di Feletto e poi domenica si dà nelle varie celebrazioni. Cioè, in sostanza sono quattro giorni la visita, circa quattro giorni la visita. No, un po' di più, da oggi al 16. A fine lunedì, no. Mamma mia, è lunga, sì? Abbastanza. Beh, ci fermiamo un momentino. È una cosa, diciamo che sono sempre cose abbastanza complesse, se vogliamo, anche perché ho visto nella nostra collaborazione così, la difficoltà è quella di rendere proprio, come dire, la molteplicità dei talenti che ci sono e che magari sono, come dire, covano sotto cenere, diciamo, non sono... espressi in modo compiuto, forse non sempre si riescono a scoprire, tante persone li nascondono bene, altri li mettono in evidenza. Ecco, forse la vera scommessa è quella di riuscire a estrapolarli, cioè, tirarli fuori proprio. Poi non tutti si sentono preparati per dare, bisogna anche un po' rispettare anche i tempi, le persone, esatto, i loro tempi, ecco. I loro tempi di maturazione, certo. Nel coinvolgimento, eccetera. E qualche volta non si riesce ad entrare in questi tempi, così. Sono delle cose che non... Vabbè, ci ascoltiamo un'altra canzone che è cantata da Domenico Modugno, intitolata A Cavallo Bianco. M'hanno lasciato solo in mezzo al campo, vorrei gridare aiuto, sto morendo, tra il rosso dei papaveri e di grigio, e la pietà festosa degli uccelli, ma d'improvviso appare un cavallo bianco, è il mio delirio che mi fa sognare, io salto in selle, andiamo a galoppare, laggiù dove mai più ritornerò. Corri, cavallo mio, lungo i sentieri della mia nostalgia, corri, perché laggiù puoi portare solamente tu. Guarda, lo vedi il mare, lasciami lì vicino a quel casolare. Guarda, l'amore mio, com'è carina in questa fotografia. L'ho accarezzata troppo con le mie dita, per questo adesso sei un po' sgualcita, ma di presenza è più bella ancora. Guarda, il mio paese, quelle casette bianche sulla collina, prendi quella stradina che porta proprio in fondo a casa mia. Vedo mio padre che sta lavorando, mia madre in casa che sta pregando, cucina e piange pensando a me. M'hanno lasciato solo in mezzo al campo, i miei compagni mi hanno dimenticato, il mio cavallo bianco se n'è andato, è troppo stanco ormai per galoppare, il cielo intorno a me già sta girando, ho gli occhi aperti ma non vedo più, mentre la bocca mia sta sorridendo, ed il perché soltanto Dio lo sa. Eccoci di nuovo con il nostro Don Giuseppe, il quale desidererei che raccontasse qualcosa dell'attività del Clan Verdurin, che lui sicuramente ha conoscenza. So che c'è un concorso di poesia religiosa. L'abbiamo fondato qualche anno fa per dare anche questa possibilità, soprattutto alle persone così che tante volte magari scrivono delle preghiere o inventano delle preghiere, altre volte queste preghiere sono anche poesie. Abbiamo chiamato i versi di Dio. Sì. I versi di Dio, per dare appunto queste possibilità anche di esprimere attraverso anche le lettere, diciamo così, ecco, i sentimenti religiosi, i sentimenti del cuore. Sa che la fate ogni anno, vero? Ogni anno il Clan Verdurin è fedele, ecco. A questa, ecco. E anche ci tiene tantissimo, perché vedo che sì, poi nel corso abbiamo ampliato anche, ripetiamo sempre più ogni volta l'edizione nuova dei versi di Dio, poi c'è l'omaggio a Mario Luzzi, poi c'è qualcosa di più specifico sul premio San Pietro di Feletto, e così dando la possibilità anche a categorie diverse di persone di cosa sarebbe il premio San Pietro di Feletto? E sarebbe una serie così di poesie che possono prendere lo spunto dopo una visita alla Pieve, qualche spunto per qualche memoria, perché per qualche ricordo, quindi qualche specifico del luogo che scrive, diciamo, che scrive. Peccato che non abbiamo qui la poesia di quest'anno, Mari, che ha vinto il premio I Versi di Dio. Ma so che chi ha vinto, tu che hai scritto anche l'articolo, mi pare, Antonio. Sì, però non ho scritto, diciamo, non ho, anche perché mi hanno, come dire, sezionato e selezionato il tutto, ho solo citato il fatto del premio, dell'esistenza del premio, senza citare il vincitore, diciamo. Che poi questo premio è nazionale proprio. Premio nazionale, sì, sì, sì. Prestigioso, diciamo. Abbiamo trovato il supporto a suo tempo di Monsignor Giuseppe Zenti, che era allora nostro vescovo a Vittorio Veneto, esatto. Adesso è il vescovo di Verona, giusto. Ecco, e poi da quello l'aiuto anche di altre personalità, per esempio Piero Coda, oppure Don Antonio Tarzia, che è il direttore di Jesus. Sì. E così, sapete, anche il nostro direttore del nostro settimanale diocesano, Don Giampiero Moret. Come si chiama il vostro? L'azione. Ah, l'azione, ecco, sì, l'azione. Sì, l'azione. Mm-hmm. E so che appunto viene fatto a Vittorio, viene stampato a Vittorio Veneto, mi pare, no? Sì, sì, è diocesano proprio. E noi qui abbiamo La Vita del Popolo, che ormai certo. Tanti anni che c'è. E questo avete fatto anche, mi pare, sotto il campanile. Mi pare che sì, all'ombra del campanile. All'ombra del campanile fu l'invenzione, sì. Perché mi pare che lo celebrammo durante il periodo estivo, per cui l'ombra del campanile, siccome avevamo preso delle sedie così, non abbiamo tante attrezzature, strutture, il paese è piccolo, ci sono poche aule, in oratorio è piccole, Allora abbiamo approfittato della bella giornata, ma naturalmente una giornata assolata, avevamo bisogno dell'ombra. C'era anche caldo? E c'era caldo. E quindi la gente si spostava a seconda che girava l'ombra del campanile. Che bello! E allora l'abbiamo chiamato come tante cose nate all'ombra del campanile. Ecco che la parrocchia quel giorno poteva offrire l'ombra del campanile, però non è dispiaciuta, mi pare. Decisamente. Poi hanno fatto anche la mostra dei fiori. La mostra dei fiori, ma abbiamo fatto anche Baliana, esposto l'anno scorso in occasione dell'apertura dell'anno della fede. Sì, abbiamo tanto proprio una varietà di fate iniziative. Parecchie mostre, mi pare, perché sì, 4-5 all'anno riusciamo. Adesso non ne avete niente? Sì, adesso ne abbiamo in corso una, di quella di Daniela Guedes, che è una brasiliana. Sì, che ho sentito. E dipinge, potremmo dire così, accompagna quella che è stata la tavola rotonda del 14 di novembre, sì. Che era dal titolo Abita la terra, vivi con fede. E lei ha sintetizzato le sue opere: nelle mie opere, nei miei dipinti, cielo e terra si toccano. Sì, infatti l'ha detto. È la capacità di sintesi degli artisti, sì, ineguagliabile. Sì, sì. No, io prima le avevo chiesto cosa fate, perché se avete qualche progetto per Natale, ma mi riferivo soprattutto, non so, per esempio in oratorio fate qualche festa per i bambini, qualcosa, la Befana, qualcosa di particolare. Beh, quello provvede questa associazione Amici dell'Antica Pieve, lo fa in grande e lo fa in piazza solitamente. Addirittura in piazza? Sì, noi realizziamo per conto nostro il presepe, chiamiamo ogni anno dei ragazzi, dei giovani con le loro famiglie a farlo, e così facciamo. Quest'anno ci sarà una celebrazione, un Natale come una volta, cioè? Nella nostra chiesa, cioè non abbiamo il riscaldamento e allora possiamo ci veramente diciamo nell'essere possiamo meglio cantare Vieni in una grotta al freddo e al gelo. Ma non l'avete perché rotto o perché non c'è? Non abbiamo mai soldi avuto per pagare, per mezzi comprare, diciamo, il gasolio. Ci immedesimiamo meglio nello spirito dei tempi, diciamo, ecco. Bisogna che vengano ben vestiti i parrocchiani, o che si mettano a cantare, o magari che abbiano bevuto un bel bicchiere di prosecco prima o recitare versi peraltro. E così, insomma, intanto adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e poi abbiamo l'ultima tranche. Allora, l'ultima canzone è Passerà, che è una canzone del 1994 che ha vinto Sanremo ed è cantata da Alejandro Baldi. Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Sono le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta coglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie, sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà passerà, passerà. Se un ragazzo e una chitarra sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni e con l'età delle canzoni passerà. E le angosce di una ricca povertà, a parlare degli amori che non hai. Ed eccoci di nuovo in studio e volevo, per concludere così, citare la presentazione del professor Toni Toniato de I Versi di Dio, Premio Nazionale di Poesia Religiosa, del quale vi citerò qualche piccolo brano. Cercare le molteplici e talvolta invisibili tracce attraverso le quali si rispecchia in ogni caso il bisogno di spiritualità nel mondo della cultura contemporanea, che viceversa sembrerebbe proteso, se non già divenuto, generalmente incline ormai a ben altri interessi, è stato dunque il principale motivo che ha spinto gli amici del Clan Verdurin a promuovere e a realizzare nel 2007 un premio di poesia che con l'identica aspirazione si è voluto per l'appunto intitolare I Versi di Dio. In effetti, l'iniziativa è stata a lungo dibattuta nelle riunioni del Clan, un sodalizio di intellettuali fondato negli anni 50 da Lia e Flaminio De Martin presso la loro ospitale residenza a Santa Maria, a un passo da San Pietro di Feletto, un antico piccolo paese sulle deliziose colline trevigiane. È reso noto in ogni parte d'Italia anche per le attività che il Clan ha saputo conseguire con le periodiche mostre di artisti e le puntuali presentazioni di autori e di libri, ma soprattutto con i vari stimolanti incontri che nel tempo hanno registrato l'affettuosa frequentazione delle maggiori personalità della cultura del secolo scorso, da Guidi a San Tommaso, da Zanzotto a Luzzi, da Moravia a Soldati, da Viani a Consagra, da Bo a Bigongiari, da Turcato ad Orazio, da Fellini a Monicelli, le cui visite ai De Martin erano divenute qualcosa di più che gradite consuetudini amicali. Una tradizione che il Clan ha del resto mantenuto, proseguendo poi in un rinnovato impegno con i protagonisti più significativi delle nuove generazioni, anche loro attratti qui non solo dalla bellezza dei luoghi, ma dalla disponibilità e cordialità di un ambiente familiare come quello di Lia e Flaminio, dove ancora è possibile condividere e scambiare, oggi come ieri, una comune, generosa passione per le scienze e per le arti. Sì. Ecco qui, mi pare che sia stato proprio delineato e tratteggiato in modo esemplare. Insomma, questo Clan Verdurin è importantissimo, penso che sia la colonna portante di San Pietro di Feletto. E come dicevo nell'articolo, che abbiamo fatto per il nostro Corriere Diocesano, La Vita del Popolo, la nostra gazzetta, è un'intersezione di arte e spiritualità, credo che possa essere definito in questo di modo più Don perché, Giuseppe, perché alcune mostre che noi abbiamo lanciato lì a San Pietro di Feletto adesso vengono qui a Treviso nel Battistero. Quindi prima San Pietro e poi Treviso Battistero. La globalizzazione a partire dalla abbiamo aperto realtà. Una strada, vede che anche poi la diocesi sorella qui ha preso. Assolutamente. Insomma, fra diocesi bisogna così aiutarsi. Perché altrimenti... No, ma è importante, è universale il linguaggio dell'arte, naturalmente, quindi... Mi è arrivato l'invito per la mostra di Luciano Forlanetto che apre qui il 13 e è partita da San Pietro. Anche quella è partita da San Pietro. Quindi abbiamo la primazia. Allora, Don Giuseppe, lei... che abbiamo solo il tempo di fare qualche, lasciamo all'ospite qualche appunto, perché magari siamo a dire qualcosa, sì. Esattamente. Un'altra nostra mostra di Deterio Riso la trovate in questi giorni a Bolzano, al Collegio Salesiano, vedete, quindi siamo un pochettino il centro propulsore di Deterio Riso, che ha collaborato con Paolo Ruffilli per quella famosa pergamena, del Clan, giustamente. Sì. A Papa Francesco. Vi ringrazio qui il Gesuina e Antonio di avermi invitato a questa loro trasmissione. È stato un onore. Mio partecipare. Io l'ho detto grazie. Subito perché, insomma, avere... Se venite a San Pietro di Feletto, venite a vedere la pieve, magari partecipare anche a qualche liturgia, alla messa la domenica alle ore 10. Un invito stimolante. E dopo la messa? Dopo la messa, una visita e magari un bel bicchierino di calice di Prosecco. Noi la ringraziamo tanto, Don Giuseppe. Grazie. E insomma, veramente ci ha fatto un enorme piacere. E a te, Antonio. E non ci resta altro che dire ai nostri amici: arrivederci. Alla prossima. Ciao, e a risentirci, ciao. Soprattutto. Avete ascoltato Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.